Buonasera a tutti. Yo. Benvenuti all'arte del vizio, musica e spazio dal timbro fittizio. Con Dottor Io, Reverendo e Baldambezzo, sintonizzate, viene estate sul pezzo. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Yo yo yo, buonasera a tutte e a tutti. Benvenute, benvenuti. Benvenuti all'Arte del Vizio. Ciao ragazzi. Puntata numero 4791 dell'Arte del Vizio. Siamo più vecchi di Gesù, dai così. Di Gesù Cristo, Gesù Cristo all'Arte del Vizio, dirica e spazio. Vai, buonasera a tutti, benvenuti cari ascoltatori e ascoltatrici. Abbiamo Reverendo al basso, abbiamo Albus al pianoforte elettrico, abbiamo Lilu. Lilu che sta schitarrando con il suo violino. Special guest, come sentite, dottor Io all'altro ai microfono questa sera. Infatti grazie a tutto, questo studio è una station wagon. E abbiamo anche una nuova new entry, abbiamo uno qualunque, lo salutiamo, uno qualunque alla batteria, con questo gruppettone. Grande, uno che passava qui per caso. Uno qualunque. Qui dagli studios di Frittole. No, scusa reverendo. Scusa dottor Io, ma non passava qua per caso. Ha sicuramente risposto al tuo appello che hai mandato di percuotitore, percuotitrice, cercasi. Ed è arrivato uno qualunque, ha risposto all'appello ed è arrivato. Grande uno qualunque. È il più grande di tutti e qui siamo, ripetiamo, all'Arte del Vizio Radio Wombat, come ogni domenica sì e domenica no, quindi traballante un po' come la musica che ascolterete questa sera. E, da Frittole, ricordiamo, ci potete contattare scrivendo a, io mi ricordo sempre l'altra mail, è sempre la stessa, frittole@gattini.ninja, sempre lei. L'email che mi scordo sempre anch'io. È sempre quella, e ora vedremo anche di aprirla, così. E anche stasera siamo sguarniti, ci hanno tirato tutto il pacco, ci dette la zona rossa, però insomma, come biasimare i nostri artisti. E cosa dirvi, cari amici, care entità all'ascolto, che di sicuro sarete residue. Abbiamo una scaletta mozzafiato, abbiamo la nuova, appunto, la new entry nella Frittole Jazz Ska Ensemble, denominata così dal reverendo. È una scaletta da urlo con nuovi pezzi di gruppi di nicchia e letture, diciamo, che porteranno, diciamo, le porteranno a riflettere, le porteranno. Ah, che bello, una settimana che ci apre il cuore. Letture molto serie per allietarvi questa domenica sera. Una bellezza, uè. E non siamo ancora caduti, perché l'arte del precipizio. Stasera Amatriciana a cena, per consolarci. Dai, va bene, fateci sapere cosa ne pensate, se ci ascoltate, se non ci ascoltate, radiowombat.net, andate lì. E io partirei subito, siccome siamo persone responsabili e ci teniamo, insomma, al buon costume, diciamo. Sì. Io partirei con la pubblicità Progresso che abbiamo qui da farvi sentire, perché è una cosa importante. È importante. La schiavitù ti libera da ogni scelta. Messaggio promozionale a scopo educativo. A causa della crisi economica, banche e finanza non vogliono distribuire il loro denaro. Le aziende private sono in sofferenza. Ma una soluzione c'è e guarda al futuro, forte del suo passato. È la schiavitù. Con la schiavitù aiuti le aziende a fare più profitto e quindi aumenta la ricchezza. Con la schiavitù non dovrai più studiare. Sarà il mercato a decidere la tua vita. La schiavitù ti libera da ogni scelta e aiuta il paese a diventare grande. Schiavitù, guadagnano in pochi, lavori tu. È una campagna di disumanizzazione. Eh sì, sì, sì, sì. Queste campagne sono importanti visti i tempi che corrono. E ne manderemo altre. Comunque siamo qui a Frittole, ci sono un sacco di ospiti, come avete sentito, in realtà sono due, e però dai, sentiamo Lilù, che è nuova da queste parti, cosa ha da raccontarci. A te il microfono. Sei in radio, eh? Buonasera a tutti e a tutte. Oh. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Va bene, non ci dice niente, ci farà sentire il violino. Ci farà sentire il violino e la Frittole Ska, già la Ska, dice a parte. Va bene, allora partono con un altro pezzo, a bomba. Thank you. Finalmente un po' di musica vera. Qui ai microfoni dell'arte del precipizio da frittole. Ma siamo un po' spente forse. Dici? No. Partiamo con calma. Non è che dobbiamo per forza fare deficienti sempre per essere attivi. Ah, no, va bene, parliamo di cose serie, ok? È che a me il violino poi dà sempre sta roba di musica celtica. Si potrebbe fare un po' di musica irlandese. Facciamo l'irlandesa. Facciamo un'irlandesata. Saperla suonare. Dai, ma. Ma gli lucidi da due accordi. Palmiro non ti si sente se parli da laggiù. Scusate. Un po' più vicino. Sappiamo che poi te ci tieni a essere in vista. Udito. Dici? No. Ah, grazie, udito. Grazie. Inudito. Questo è il primo insulto della serata, che mi danno del narcisista. Seguiranno però altri, tranquillo. Sei umido, Palmiro, sei umido. Sono umido. E, no, volevo farvi sentire la mia lontananza. No, dicevo... Il tuo distacco, il motivo. Distacco. Queste voci lontane. Comunque, no, dicevo quello che volete, ragazzi. Se no, lì ci può consigliare due accordi e si fa un po' di musica irlandese. Siamo all'arte dai, un altro pezzettino, poi magari si manda un po' di pezzi, un po' di musichetta da, dal PC. Ma si fa l'altro? Allora, niente, vi ricordo di scriverci cosa vorreste sentire a frittole@gattini.ninja nel caso vi annoiate. Se no, avete i nostri numeri, che sono il 335 666 666. 6 6 7 6 7. Va bene, vi portiamo in Irlanda adesso. Forse portato una ghirlanda. Ale, ale, ale. Ci abbiamo provato a finire per bene. sulle coste dell'Irlanda. È arrivata a frittole. Okay. Infatti, allontaniamoci, hanno messo l'embargo dopo questa canzone. Vabbè, non ci proviamo più, va bene. Dio, questo argomento di coste potrebbe introdurre tanta amarezza. Uno degli argomenti. C'è tanta amarezza dibattuti, nella voce di Reverendo. Dibattuti stasera. Non ci proviamo stasera, più. Stasera, così per l'arte del precipizio, pensavamo a cose molto alte, cose altissime, cose come altissime. Scogliere o navi. Oddio. Beh, le famose scogliere d'Irlanda. Bravo. Famosissime. Bravo, bravo. E scogliere o navi? Navi che sembrano scogliere. Navi scogliate. Navi incagliate. Oddio! Oddio! No! Scusate che abbiamo rischiato. Qui vola tutto nel vero senso del termine. Come se non bastasse per una settimana di merda di Palmiro schiantare anche in terra la chitarra nuova. Nuova! L'arte del precipitamento. Ehi là. Scogliere navi che sembrano scogliere. No, è tutto vero. Le proporzioni della nave e lo sfondo del deserto egiziano, interrotto dai pattern cromatici dei container, hanno reso per certi versi ipnotiche le foto della Ever Given. A metà tra un incrociatore imperiale arenato su un pianeta di Star Wars e il battello trascinato nella foresta amazzonica del Fitzcarraldo di Werner Herzog. Avete capito bene, parliamo dell'argomento della settimana. L'argomento che ha soppiantato la pandemia per numero di visualizzazioni. E noi seguiamo il flusso visualizzatore e stasera parleremo di quella immensa nave gigante che sta bloccando il commercio di mezzo mondo, incagliata nel canale di Suez. Le immagini dell'enorme nave portacontainer Ever Given, incagliata all'imbocco del canale di Suez, sono state di gran lunga le più viste e commentate della settimana. E mentre passavano da testimonianza di un evento spettacolare e inatteso a sfondo di meme condivisi sui social network, hanno rivelato a moltissime persone i meccanismi e le dimensioni dell'infrastruttura delle spedizioni navali, tanto fondamentale e influente nella vita quotidiana di ciascuno di noi quanto invisibile e praticamente chiunque non ci abbia a che fare per il lavoro. Allo stesso tempo, quella della Ever Given ha evidenziato fragilità e paradossi del mercato globalizzato e ricordato quanto incidenti relativamente banali e imprevedibili possano avere conseguenze enormi per l'economia globale. Se la nave non sarà liberata entro qualche giorno, l'impatto sui commerci avrà probabilmente conseguenze percepibili direttamente da milioni di persone. E ancora una volta non dipende da i movimenti. No, sì, Reve. Comunque è facile, no? Bloccare il canale di Suez, cioè sarebbe, no? Facile. Sì. Ma c'è probabilmente altro dietro all'attenzione collettiva verso la nave e il suo enorme imprevisto, che sta affascinando molti per la sua casualità, la sua estetica, il suo lato comico, risate finte, e la sua natura per una volta estranea alle notizie epidemiologiche che hanno occupato le vite di tutti nell'ultimo anno. Insomma, se la vita di merda riempiva i quotidiani di tutto il mondo da un anno, ora c'è una nuova notizia. E non l'avevate ancora letta, immagino. Esilarante notizia. Dopo mesi nei quali seguire e capire le notizie sulla pandemia ha richiesto lo sviluppo di una notevole dose di nozioni scientifiche su virus e vaccini, e in generale in un'epoca storica in cui le cause, ramificazioni e implicazioni della gran parte dei fenomeni globali appaiono e sono spesso troppo complesse per essere interpretate e valutate pienamente, la storia della Ever Given sta appassionando molte persone per la sua semplicità. Un applauso alla semplicità, cazzo! Viva la semplicità, è sempre la scelta migliore. Per cause ancora da chiarire, ma tutto sommato intuibili, vabbè, legate probabilmente a una combinazione di fattori atmosferici, il forte vento, ambientali, la conformazione del canale in quel tratto, e umani, si ipotizza un qualche tipo di errore di manovra, tipo quando sbagli a fare retromarcia o tipo quando sali Quando sali in terza. Con la ruota sul dosso, oh, quando parti in terza, quando ti incagli con la nave portacontaineri. Un'enorme nave si è incastrata dove proprio non doveva incastrarsi. E spostarla è un'impresa complicatissima. Sì, spostarla è complicato e lasciamo l'impresa ad un ruspino. E chi lo guida il ruspino? Speriamo uno bravo. O una. Allora, questo articoletto, vabbè, ora non stiamo a leggerlo tutto. È anche troppo serio. È il post. Però, ecco, era giusto per... parlare di qualcosa. Quella delle navi cargo è un settore enorme. Fondamentale e di fatto misterioso. Raccontato dal giornalista William Langewisch in un libro del 2004, Terrore dal mare. Terrone dal mare. Tra previsioni non avveratesi sulla minaccia terroristica rappresentata dalle grandi navi e ricostruzioni di epocali incidenti navali, lui racconta l'intricato e anarchico mondo del trasporto marittimo. Anarchico! Fatto di navi alle cui proprietà è sostanzialmente impossibile risalire. Impossibile! Proprietà! E di complessi e truffaldini sistemi di immatricolazione transnazionale. Truffaldini! Questo nasconde frequentissime attività illecite e rende complicato e poco efficace lo sforzo dei governi e delle istituzioni internazionali di stabilire e soprattutto far rispettare le regole. Ebbene sì, perché cade sempre lì, nell'ora legale. Sulle regole. Sì. Dai, domenica sera. Snoccioliamo un po' di numeri. La Ever Given comunque non è una nave porta container qualunque. Bensì una delle più grandi in circolazione. Lunga, pensate, 400 metri. Più dell'Empire State Building. Dell'Empire State e della Torre Eiffel. E pesante oltre 200.000 tonnellate. Di milioni di tonnellate. Posso spostare? Può ospitare quasi 20.000 container. Che sono grossi come 10 volte casa mia. No, 10 direi poco. Un container ha una capacità che è superiore a quella dell'intera flotta commerciale dell'impero britannico alla fine del 500. Sentite qua che dati, che raffronti. Questo articolo è incredibile. Un pozzo di sapere. C'è della scienza. Cioè, quindi l'impero britannico nel 500 aveva questa capacità di carico. Aveva una nave container con 20.000 container sopra. Sì, più o meno sì. Dice lui. E poi vabbè, altre cose, ma secondo me è finita qua. Se volete possiamo leggere l'articolo "Le navi che rimasero bloccate 8 anni nel canale di Suez". Oppure ci diamo un attimo un taglio. Vorrei cambiare sito. Sì. Allora, vabbè, qui a Frittole c'è un'area spensierata. Sì, totalmente rilassata qua, la Frittole Ska Jazz Band. Anche un po' anarchica e truffaldina. Anarchica! Un saluto a tutte le forze dell'ordine che ci ascoltano. speriamo per loro che costruiscano nuove inchieste nel prossimo futuro, nuove fantasiose su chi incastra inchieste. Le navi. Esatto, ecco. Esatto. Palmiro, prego. Ho detto quante cazzate state a dire, c'è di lui che si sta buttando via dalle risate. Ma io la vedo molto, molto composta in verità. Cioè, tu sei l'unico distratto. No, allora sei distante. Ho dei problemi percettivi. Perché sei distante stasera? Perché mi è stato un po' sul cazzo, però forse ho dei problemi. Siamo ancora in fascia protetta. Esatto. Hai ragione, Palmiro. Hai ragione. No, poi non sei political correct. No, ho dei problemi percettivi alla cornea, forse non ci vedo bene. Tra l'altro il mio professore, ancora peggio. Il mio professore di sistemi RT. Tappetino, Albus. Oh. Albus il disertore stasera. Grande Albus. Ok, ma che si fa? Si fa suonare un po' la frittolesca jazz ensemble? Eccola. O... Lascialo. Sì. Allora, se volete riposarvi un po', io manderei anche un pezzettino. Altrimenti suonate, boh. Ah, l'hai stoppato però così il nostro... Sì, allora, sì. Facciamo così. Ora, techno-tripping style. C'era Albus che stava Mi state clippando, nelle cuffie. Yeah. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. No, dai, mandaci un po' di... Fai te... Va bene, vai. Allora, Wild Sheep, un super gruppone per voi. Giusto per tranquillizzarsi un po', appunto. Yes. Destroy your life. 19.55, siamo sempre su Wombat, ci stiamo ascoltando Wild dall'album Paint Your Light. Vorremmo che uno, nessuno, 100.000 adesso parlasse, cioè volevo chiederti un po' che cos'è questo gruppo, dici qualcosa. Eccolo. Ok, si sente molto meglio. Dici. Oh, si sente se parli. Sì, sì, se parli si abbassa la musica. Vabbè, che dire, questo gruppo è un gruppo che è nato circa 9 anni fa. Adesso siamo in un periodo un po' di stallo perché ognuno ha preso una strada un po' diversa. Diciamo, siamo separati fisicamente. E niente, quello che sentite adesso è un album del 2018. È la canzone che è andata prima, è l'intro dell'album, e parla di come veniamo plasmati dalla società e fin da quando siamo piccoli, quindi cresciuti con la televisione che ci piazza dei modelli da seguire e con i genitori che ci dicono di non fare le cose e quindi ci fanno crescere impauriti del mondo circostante. E quindi direi che in realtà come possono essere Mondeggi o le comuni, gli ecovillaggi in Italia sono sicuramente dei posti alternativi in cui fare crescere i ragazzi e in cui apprendere che cosa significa vivere in comunità e poter creare la propria vita e dipingerla con i colori che più ci aggradano. E così riprendo il titolo dell'album che si chiama Paint Your Life. E appunto dipingi la tua vita e crea te il tuo quadro, la tua dimensione, il tuo ritratto, e diventa ciò che sei al di là dei canoni che la società può volerti intingere addosso. Quindi decidiamo per noi e viva l'anarchia. Giusto. Dai, grazie. Ale. Bella. Grazie nessuno. Contributo veramente prezioso. Uno qualunque. Comunque, se uno qualunque può avere un gruppo così figo, io direi che qualcuno può avere un gruppo fighissimo. Veramente chiunque. Grande uno qualunque, grazie. Va bene, salutiamo davvero anche Mondeggi, salutiamo i posti in cui si può decidere come dipingere la propria vita. E salutiamo anche le 6 entità all'ascolto, prima erano tipo 13, ora sono 6, vabbè. Vabbè, vi aspettiamo di nuovo qui. Vabbè, noi non siamo permalosi, Assolutamente. Però siete un po' meno. Palmiro però lo è, Palmiro è permalosissimo, quindi riconnettetevi, anzi voi 6 andate lì a beccare. Riconnettete. Ritornate da noi. Ok, quindi avete sentito uno qualunque che ci ha raccontato un po' della sua band e l'abbiamo ingaggiato oggi per farci un po' di musica spenta. Sì, adesso ci riscaldiamo un attimo i polpastrelli, rotiamo le dita e le falangi e ricominciamo con un altro pezzettino. Sì, live. Però reverendo, ti devo bloccare perché dalla regia ci dicono che dobbiamo mandare lo spot pubblicitario. Io volevo solo anticipare quello che succederà. Ah no, certo, no. Nei prossimi minuti. Batti becchi in studio, frittone. Vai. Vabbè. No, aspettiamo. No, vai. Ragazzi, fate i bravi. Va bene, un po' di manda lo spottino. Pubblicità a progresso. Pubblicità a progresso. Messaggio promozionale a scopo educativo. Millenni di evoluzione ti hanno dotato di sensi finissimi che usi in ogni istante per vivere e comprendere la realtà che ti circonda. Ma oggi c'è un luogo in cui tutto questo non ti serve ed è la realtà virtuale. Con la realtà virtuale puoi fare a meno di olfatto, gusto, tatto e spesso anche di udito. La realtà virtuale trasforma ogni aspetto della vita in immagini ad alta definizione da guardare per tutta la vita che vuoi. Realtà virtuale, il mondo dove i tuoi sensi non hanno più senso. È una campagna di disumanizzazione. Che bellezza. State diventando persone migliori, no? Thank you. e cambiamo un attimo genere con Palmiro e il suo chitarrino favoloso. Questa è dedicata a tutti quelli che non sanno che fare questa domenica noiosa. Cosa fare? Non lo so, ma ci proverò. Che cosa fare? Non lo so, qualcosa mi inventerò. Che cosa fare? Non lo so, ma ci proverò. Che cosa fare? Non lo so, qualcosa mi inventerò. Se da Thank you. cosa fare, non lo so, ma ci proverò. Cosa fare, non lo so. Buona domenica. Solo strappamutande di Palmiro, come solo lui sa fare. Bellissimo, bellissimo. Bravi, brave. Grazie. Tanta roba. Grazie, io non mi sento molto in forma. No, dai. Però, dai, come tappetino ci possiamo. Stupendo. E è troppo esigente, il questo, questo violino come. Sei troppo esigente. Allora, io direi si può scivolare alla fine sull'altro argomento della serata. Prendiamo il violino irlandese che si diceva prima, prendiamo le navi alte come le scogliere immense, quindi parliamo di scogliere. Scogliere nel mondo. L'arte del precipizio, scogliere nel mondo. Sette spettacolari scogliere nel mondo, senti questo... Questo titolo. Dalla Francia alla Nuova Zelanda, ecco sette falesie meravigliose da ogni parte del mondo. Capolavori della natura per vivere emozioni a tutta adrenalina. Adrenalina. L'avevi sentita questa espressione? No. Tutta adrenalina. A tutta adrenalina. Scogliere di Moher, Irlanda. Le scogliere di Moher sono una delle maggiori attrazioni turistiche in Irlanda, attirando quasi 1 milione di visitatori l'anno. come sentinelle giganti emergono dall'oceano Atlantico con la loro sagoma spettacolare e ospitano all'incirca 20 specie di uccelli per 30.000 esemplari complessivi. Finite le informazioni. Di già? Sì. No. Siamo un po'... Vabbè, un po' pacco questo sito, però vabbè, vediamo se sulle bianche scogliere di Dover, Gran Bretagna, vabbè, ci dice qualcosa in più. Sono troppo famose. Sono troppo famose. Vabbè, allora dici qualcosa te, se sono troppo famose. No, c'era Albus. Scusa. Albus era una cosa, non so. Vabbè. E insomma, le bianche scogliere di Dover, situate nella cittadina portuale di Dover, le scogliere hanno un forte valore simbolico per la Gran Bretagna. Ma Dover sono? Si affacciano infatti sul canale della Manica. Sono sul canale della Manica, sì, costituendo in passato un muro strategico contro le invasioni francesi. Composte prevalentemente di calcare, possono raggiungere i 107 metri di altezza. Ok. Quasi quanto la... Queste sono, ecco, Guinness dei primati si parla, eh? Hawaii. Kalaupapa Cliffs. Situato sull'isola hawaiana di Molokai, Kalaupapa è un villaggio situato alle pendici delle scogliere più alte del mondo. Secondo il Guinness dei primati, si tuffano nel Pacifico ad un'altezza di circa 1010 metri. Queste meraviglie sono state immortalate nel film Jurassic Park 3, che secondo me è il più brutto. Assolutamente sì. Vero? Cioè, veramente una... Anzi, ecco, una cagata pazzesca. Diciamolo. Può continuare a leggere queste cose? Oh. Ma allora leggiamo anche Mitre Peak, Nuova Zelanda, con 1690 Bomba. Metri. È la scogliera più alta della Nuova Zelanda. Sono tanti. Il nome indica la sua caratteristica forma simile alla mitra di un vescovo. Avevo letto il mitra di un vescovo. Poi? Sono senza parole. Sul bellissimo fiordo di Milford Sound, una delle montagne più fotografate del mondo. E quindi hanno un sacco di views ed è raggiungibile tramite una mini crociera sul fiordo, che scopriamo qua che non sono solamente in Norvegia ma anche in Nuova Zelanda. Lo sapevate? Sapevatelo. Allora, la prossima puntata sarà sui fiordi. E tre, come si pronuncia? Etretat, Francia. Etretat è un piccolo borgo costiero in Normandia, noto per le sue falesie che comprendono anche un famoso arco naturale. Ah, non parco, arco naturale. Famoso. La bellezza delle scogliere e della spiaggia sottostante ha attirato grandi personalità legate al posto come Gustave Courbet. Sì, si vede, l'hanno tradotto palesemente dall'inglese, cioè, un altro sito spazzatura. È terribile. E c'è anche Claude Monet, ecco. Questa scogliera francese mi porta direttamente al pensiero di farvi scoprire un secondo, farvi fare un attimo un viaggio nel loop dello streaming che stiamo sparando qua. C'è anche Claude Monet, ecco. Questa scogliera francese mi porta direttamente. C'è un viaggio nel tempo quasi. Un secondo, un viaggio nel streaming che stiamo sparando. Inception. Questa scogliera francese porta direttamente. C'è un viaggio nel tempo. Sì, non sta saltando lo streaming, siamo sempre. Ho capito, noi siamo avanti nel futuro rispetto a voi care entità che ci ascoltate. Di ben 30 secondi. quello che ha detto adesso voi lo sentirete tra 30 secondi. E quando lo sentirete noi saremo già 30 secondi avanti. È un problema del fuso orario, secondo me. Qua sull'isola di Frittole le cose scorrono diversamente. Comunque, dai, per finire l'articolo, scusate questo inciso, per finire l'articolo, caro Doctor, questa cosa c'è? È bella, c'è Cape Anniberg, nelle isole Faroe, che è una foto bellissima questa. Se non lo faccio oggi lo farò. Wikimedia Commons, foto. La scogliera si erge sull'isola Viboi a quasi 750 metri d'altezza. Gli hikers esperti possono godersi panorami meravigliosi durante le arrampicate. In estate si organizzano escursioni in barca al promontorio. Qui è possibile avvistare una folta colonia di uccelli. Ma strano. Quindi i bird watcher sono avvisati. È finito l'articolo. I bird watcher sono avvisati. Bird watcher avvisato. Direi mezzo anche, salvato. Direi anche gli hikers di mettersi le mutande. Ci sono troppi guardoni. Io ho il microfono altissimo, me ne sono accorto ora. Ma va bene, va bene. Salutiamo le 12 entità all'ascolto che sono ritornate. Bomba. La Lilu ha fatto un giro di telefonate e sono arrivate. Vuoi fare dei saluti? Lilu, a questo punto fai tutte le dediche, saluti, dediche, maledizioni, anatemi. Un saluto carissimo a tutte le mie sorelle volpette. E a tutti gli altri che chiaramente e altri che ci stanno ascoltando. A voi altri che ascoltate Radio Wombat e ascoltate l'arte del precipizio. E la Frittole Band, Skagets Band Explosion, cosa fa stasera? Vuole suonare ancora? La Flying Palmiro continua a essere distante. Sì. La Flying Carpet Orchestra. Sono veramente distaccato. E ora faremo questo pezzo che ci rimanderà un po' di stile barocco, un po' di stile, diciamo, metal senza effettistica. Ci rimanderà un po' a metal senza effettistica. È la stessa cosa. Minchia! Ci rimanderà un po' a, diciamo, a quelle che sono le nostre radici. E la nostalgia, infatti questo pezzo si intitola Radici e Nostalgia, o Nostalgia e Radici. Bomba. Ecco, sta zitto perché medita e quando parla dice queste cose bellissime e riflessive. In effetti se parlasse di più non ne apprezzeremmo così tanto. Sono perle ai porci. Allora, comunque a voi nuove entità che vi siete collegate all'ascolto, se volete scriverci, oltre a farlo sui nostri numeri privati, potete farlo a frittole@gattini.ninja mandando una fantastica mail di insulti e non solo. Comunque adesso proviamo a ricominciare con la Flying Carpet Band e via, e via. Thank you. Doctor. Radio Wombat, da sempre e obiettivamente la migliore. Allora, devo dire che non sono per niente abituato. I nostri pezzi durano di solito dai 7 ai 14 minuti, mentre oggi durano meno di 2, e quindi boh. Sempre esigente, reverendo. Sì, eh? Comunque molto bello, grazie. Noi scioperiamo, andiamo via adesso. Ora si fa un bel pezzo. Ti sento, Palmiro, sei troppo distanza, distanza. Cos'è successo? No, distanza di sicurezza. Il prossimo pezzo durerà 15 minuti. Oh, e lo facciamo tutto afrobeat. Due accordi, chitarra, sempre gli stessi, e voi vi potete svagare. E rizzati. Suonate subito allora? Dai, sì. Che allora, siete sempre su Radio Wombat, state ancora ascoltando L'Arte del Vizio, aka L'Arte del Precipizio, questa non so che numero di puntata sia. In sottofondo continuano ad andare Wild Ship con Paint Your Life, e tra un po' ripartiamo. Vola todo. So baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby Quasi a metà. Thank you. pensate sia finito, invece è solo la metà del pezzo. Oh, Avviciniamo dolcemente alla fine. Altri 10 minuti. Good vibes a frittole. E avanti con la musica dal vivo. Con la musica viva. Dovrebbe essere evidente che per disincagliare la nave occorre sbarcare dalla perpendicolare passante per il punto di incaglio, un peso pari alla reazione di incaglio R, ovvero sbarcando più pesi la cui somma corrisponda ad R. La nave incagliata ed aventi come baricentro la perpendicolare passante per il punto di incaglio. Oh, oh, oh. Qualcuno la sposti. Come disincagliare una nave? La sposti. Ricerca su DuckDuckGo. Subito. Subito. Subito. Subito. Say bubble ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. So they left the apple, Bobby did over die. Sì. Questo è il grido della nave che urla aiuto. Yeah, yeah, yeah, yeah. There's a day, day, day, say about a leave that pipe in the eyes. Qualcuno mi venga a aiutare, per favore. Sono incagliata sul fondo del mare, sono qui ad aspettare. Qualcuno mi venga a aiutare, sono incagliata nel mare, rimango qui ad aspettare, rimango qui ad aspettare, insieme ai pesci blu, nel mare blu. Sono qui, sono qui, sono qui. Sono qui, e sono qui, e sono qui, e sono qui, e sono qui, e sono qui, sono qui, sono qui, e sono qui. Stretta qui, sono stretta qui, una nave stretta qui. Ubbridisi alla nave. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Subito, subito, subito, subito. Segui le coordinate. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. È il pezzo della nave. Non era rivolto a voi, chiaramente. Cercando l'ultimo argomento serio di cui parlare questa sera. Penultimo. Il penultimo. stiamo spippolando sul web in cerca. Allora, questa è una serata di collegamenti. Dimmi, dimmi se, non, se, se mi sbaglio, reverendo. Sì, sì, un po' assomiglia alla mia tesina di Twitter. Abbiamo collegato la nave incagliata, una nave immensa, grande come le scogliere. Quindi abbiamo parlato delle scogliere che si collegavano allo splendido violino suonato da Lilù. E sempre tornando a quella bella nave incagliata, nel canale di Suez avete visto come, se avete visto qualche foto di quel tragico evento, il modo per disincagliarla per ora è utilizzando un escavatore o ruspa. Insomma, ci sono le foto di questa macchina sposta terra che prova a disincagliare la nave. E noi ci siamo chiesti qui in regia, ma qual è la differenza fra ruspa ed escavatore? E qui siamo arrivati ad una lezione, un PDF del Politecnico di Milano che tratta esattamente di organizzazione del cantiere, quindi nello specifico macchine in movimento terra e scavi. E c'è un po' di storia e nello specifico lo scavatore è utilizzato per tutte le operazioni per rimuovere porzioni di terreno non particolarmente coerente, tale da consentirne una relativamente facile frantumazione. E chiaramente la resa è legata alla dimensione della benna, si può cambiare la benna a seconda dell'utilizzo che se ne vuole fare dello scavatore, e gli scavatori sono principalmente o cingolati o gommati o su appoggi snodati su base. E poi c'è una lunga descrizione di quelli che sono i vari tipi di escavatori, c'è uno scavatore messo in verticale, i vari trick che puoi fare con l'escavatore. Ci sono tipi di benna, va bene. Ci sono anche dei terminali speciali, tipo un'enorme pinza per aggrappare cose. C'è il martello pneumatico. C'è un'altra pinzona, il ragno, il famoso ragno delle macchine, delle macchinette, delle sale, degli arcade. E ci sono anche una barra dischi per taglio di rami e legna, c'è cioè la rotofresa per pulizia fondo fossi, insomma lo scavatore, la benna falciante per sfalcio di erbe acquatiche. Questa è veramente bella, è tipo un forchettone però a griglia. Ma è una testa trinciante. È una testa sfalciante, perché c'è questi triangolini che tagliano l'erba. Poi c'è anche la testa trinciante, sì. E poi questo enorme retino da piscina che però si fa, viene utilizzato nei fiumi. E c'è anche qualcosa che aiuta la neve. Non è vero che taglia gli alberi. La neve in foto ci siamo... Ci sono confusi. Anche delle ottime formule. Delle formule, sì, dove P volume al colmo della benna, R coefficiente di riempimento, S coefficiente di rigonfiamento del terreno. Vabbè, non stiamo qua a parlarvi di questo. Produttività di un escavatore, però qui non la dice la differenza. Arriviamo un secondo alla ruspa, perché qua siamo alle pale meccaniche o caricatrici, che sono queste ruspone cingolate. Per me sono tutte ruspe. Che caricano un della terra o qualcosa su un altro mezzo, quindi tipo su un cassone di un camion. Comunque vengono chiamate pale meccaniche o caricatrici. Veramente, veramente completo questo. Ecco la terna. La terna. Questo PDF. Però arriviamo alla terna. La terna è composta da una pala gommata, attenzione, dotata di un braccio escavatore sul retro. Quindi un attrezzo estremamente completo. Utile. Però adatta solo a certi tipi di cantiere / lavori. C'è il dozer, che è un bellissimo cingolato che spinge, si chiama, non a caso, apripista, il bulldozer. Siamo arrivati alla nostra ruspa. La ruspa. Che è una macchina costituita da due elementi principali, il trattore. E là... Oddio, no, c'è una foto. Ciao. C'è una foto sopra. Scusate, un secondo, abbiamo avuto un contrattempo. Abbiamo avuto un contrattempo, ho bisogno di un secondo, godetevi il tappetino. Allora, scusate ascoltatori e ascoltatrici, però quello che vi volevamo leggere è coperto da un'immagine e non sappiamo cosa c'è scritto. Non scopriremo mai la differenza tra ruspa e scavatore, però vi diciamo quest'ultima cosa: ci sono anche delle livellatrici che si chiamano grader. Livellano il terreno in tutte le angolazioni, e ci sono anche le macchine costipanti nel caso. Occhio ai vostri scarichi. Allora, dopo questa lezione sicuramente siete delle persone migliori, delle persone più acculturate, e qui abbiamo la band che scalpita. Quindi, caro Never Boy, io penso che sono le 20:55, perfetto orario. Potremmo anche... Che sta continuando? Sì, no, mi dispiace. Queste macchine giganti che spostano cose, sì, pesanti. In tutto questo non abbiamo dato assolutamente nessuna risposta ai nostri no. ascoltatori e ascoltatrici. Ora so che ci lascerete. Anzi, però... ancora più domande. Va bene. State scappando. Cara entità all'ascolto, lo vediamo. E quindi... E ricominciamo a suonare. Siete pronte? No. Va bene, allora abbiamo l'ultimo spot di pubblicità progresso mentre accordate gli strumenti. E poi si va a terminare questa splendida puntata. Messaggio promozionale a scopo educativo. Cantare a squarciagola insieme a migliaia di persone. Piangere o ridere. A teatro o al cinema. Ballare per tutta la notte. Per vivere emozioni così serve tanta energia umana. Ma grazie all'abolizione delle attività artistiche e culturali, hai risparmiato risorse preziose da usare sul lavoro o per scegliere cose da comprare. Senza arte e cultura puoi finalmente spegnere anima e mente e produrre e consumare per il bene del paese più bello del mondo. È una campagna di disumanizzazione. E viva il paese più bello del mondo, dove si fa anche la musica più bella del mondo. Beh, se non volete andare a spendere per la cultura, potete benissimo ascoltare noi, che vi facciamo, esatto, i concerti gratis. Infatti ora meno polemiche e più sostanza. Più musica. E dottor Rio passa al basso. Basso. Vi lasciamo con un pezzo un po' caraibico / in realtà una bossa del nostro caro Palmiro. Sì, che non avevamo mai sentito a questi studios. No, se no facciamo l'altro. Quale? Facciamo il blues, come dicevo. No, sono un casino. Yeah. Dai. Abbiamo cambiato idea, vi lasciamo con un blues. Bello profondo, perché noi all'arte ci teniamo. Yalla. Lui ha thank you. fosse stato calcolato, Davvero. Come se avessimo fatto delle prove per fare tutto ciò, quando invece non è così. Palmiro incontenibile ha parlato poco, ma ha suonato tanto. Ha suonato troppo. Ha suonato troppo e ha parlato il giusto. No, ha parlato poco stasera e va bene, si rifarà la prossima volta. E poi abbiamo Lilù, fortissima. Mitica, era tanto che gli facevamo la corte e finalmente. Grazie finalmente di essere stata passata con noi, davvero. Grazie a voi. Ma non e poi c'è altro uno tempo? Qualunque, Mitico. Mitico col suo gruppo Wild Sheep, che avete ascoltato questa sera e che vi consigliamo di andare a cercare su tutte le piattaforme digitali. E non. Grazie di aver risposto all'appello, uno qualunque. Grazie. Sì, davvero. Ma tutti musicisti, direi, eh? A Palmiro che si sta sdando. Palmiro inarrestabile. Albus alla tastiera. Albus tastiera ed effetti. E niente, se vogliamo proprio chiudere questa puntata, io manderei un pezzo degli In Camicia, perché a quanto pare il nostro Camicia è diventato babbo. Auguri infiniti al Camicia. E In Camicia per concludere. Volete dire qualcosa? Studio? Volete suonare? Vai, suonate. La mandiamo dopo gli In Camicia. Tanto abbiamo tempo. Dai, c'era Palmiro che smaniava. Faremo un pezzo per loro. Scusami. No, ci sta. Gli dedichiamo il pezzo di Palmiro che smaniava per fare la sua bossa. Questa non è bossa, Palmiro. Doveva essere una bossa. Questa è una bossa progressive. No. È tornato alle sue radici. Ah, non è una botta. Qualcosa si è incagliato. Oh, non c'è attività migliore per allenare il cervello che giocare. E questo vale soprattutto per gli anziani. Più il cervello lavora e più funziona meglio, si deteriora meno. I giochi per anziani devono avere alcune di queste operazioni mentali: confronto, associazione, elaborazione, assimilazione, classificazione, memoria. Possiamo. Stiamo leggendo l'ultimo articolo della serata. No, queste. Cioè, no, cambia ormai. Cambia. Cioè. Oh, niente. Così non interrotti. Non riusciamo a finire niente stasera. Non mi stavo ascoltando. Ho capito. Ascolti solo te stessa. No, yeah. In realtà non riesco a ascoltare bene. TVB Palmiro. Vai, vediamo se c'è un reprise di questo beat. I giochi per gli anziani. Possiamo dividere i giochi per anziani in due macro categorie: quelli con delle attività motorie e quelli di logica e memoria. È bruttissimo, veramente. Dai, Palmi, facci sta bossa, andiamo a cena. Qui ormai è un puro salotto. Ora sentirete i nostri scazzi personali, perché ormai stiamo andando a ruota libera. Palmiroso permaloso. Palmiro permaloso. Questo è un pezzo nuovo. Si chiama Palmiro permaloso. Petaloso. Palmiro petaloso, bravo. Bello. Sarà il titolo di questa trasmissione nuova: L'arte del petaloso. Non c'hai petali sulla lingua. Numero 5221. Calcolo dei volumi di scavo. rapporto tra volumi è ovviamente legato alle differenti densità. A grandi linee si possono assumere i seguenti valori: terreno sabbioso, terreno di medio impasto, terreno argilloso, rocce non compatte, rocce compatte dure. 1 1 1 1 0 5 1 1 2 1 1 40 sbarione puro. 1 1.4 1.2 1 1.4 1 1.2 1. Vediamo in quanti siete rimasti, cara entità. 8 entità all'ascolto a seguire questo disastro. Ma hai ricaricato la pagina? Palmiro permaloso, Palmiro pedaloso, Palmiro permaloso, Palmiro petaloso, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Palmiro petaloso, Palmiro petaloso, Palmiro petaloso, Palmiro petaloso. La rivoluzione, attenzione. Buonasera a tutti. Thank you. ringraziamo tutta la band che questa sera ci ha alitato. Ci ha alitato. Alitato. Uno qualunque alla batteria. Al bussilente alla tastiera. Yeah. Il signor Palmiro Permaloso Petaloso alla chitarra. Il bassista è cambiato nel tempo, però diciamo che sono sempre i nostri carissimi, indimenticabili, favolosi, pedalosi, dottor Io e il reverendo. Grazie per aiutarci sempre con le vostre voci alla radio. Invece alla voce, violino, grazie a te per questa fantastica serata che sei arrivata e hai veramente cambiato tutto. Grazie Lilù, un bacione, torna qua presto, davvero. Grazie a voi. E l'arte del vizio 4888 finisce qui e ci risentiamo tra due domeniche, forse. Vi mandiamo Valentina e un bacione ancora, mi raccomando, boh, non impazzite. Una vagina ti trovai. Saluti. Oh, in mezzo alle gambe. Nessuno vedrai che ci sarà uno soffare incredibile, ma la natura quando vuole fa i miracoli. Petalo di ciccia, la bocca di una vecchia mi parea. Ma te lo giuro, di vaccina si trattò, di vaccina si trattò, di vaccina si trattò, di vaccina si trattò, di vaccina si trattò. Stop.